il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al Quadrifoglio parliamo di paesaggio. Da qualche mese un gruppo di associazioni ha lanciato la campagna nazionale Salviamo il Paesaggio, che ha lo scopo di sensibilizzare sullo spreco della risorsa terra e di salvare il territorio italiano dalla cementificazione selvaggia. In Italia sembra infatti che abbiamo cementificato una gran parte, circa un quinto della cementificazione della costruzione totale negli ultimi 30 anni, e si calcola che vi siano decine di migliaia di alloggi sfitti che si potrebbero riutilizzare. Proprio in questo periodo è anche in discussione una legge contro lo spreco del territorio e nell'ambito di questa campagna Salviamo il Paesaggio è anche partito qui nel Padovano un appello per la costituzione di un parco agricolo e paesaggistico metropolitano che dovrebbe comprendere la zona tra il fiume Brenta e il Bacchiglione. Ecco, di tutto questo vogliamo parlare oggi con il nostro ospite che è l'architetto Sergio Lironi, presidente onorario di Legambiente di Padova, al quale intanto diamo il benvenuto nella trasmissione. Salve a tutti. Ecco, prima di parlare della campagna Salviamo il Paesaggio, appunto, forse dobbiamo intenderci su che cosa è paesaggio. Sì, la definizione di paesaggio non è semplice, anche perché ha avuto, diciamo, interpretazioni diverse nel corso degli anni e in base alle discipline. C'è il paesaggio, ad esempio, l'ecologia del paesaggio che utilizzano i biologi, c'è il paesaggio estetico dei pittori, c'è il paesaggio degli urbanisti. Ma la cosa interessante è questa. La prima cosa direi è che il paesaggio, come ricorda ad esempio Salvatore Settis, un grande studioso che ha scritto un libro molto interessante sul paesaggio proprio recentemente, La Costituzione, l'Italia è stata, dice Settis, il primo paese al mondo che ha introdotto tra i principi fondamentali della propria Costituzione la salvaguardia del paesaggio, la tutela del paesaggio, l'articolo 9. Quando si parlava di paesaggio in quegli anni, cioè negli anni 40, in realtà si pensava soprattutto alle eccellenze, cioè ai monumenti naturalistici, alla storia, ai monumenti architettonici. Oggi invece il paesaggio è qualcosa di più complesso e viene definito, ad esempio, nell'anno 2000 dalla Convenzione Europea del Paesaggio. E nel paesaggio, intanto, quando si parla di paesaggio nella Convenzione Europea, si parla del paesaggio di tutti i giorni, del paesaggio quotidiano, del paesaggio che la gente vive. Quindi c'è questo concetto per cui tutto è paesaggio e quando bisogna migliorare, salvaguardare il paesaggio, significa migliorare anche la vita quotidiana degli abitanti. Quindi non solo alberi, fiumi, monti, ma anche gli uomini che sono all'interno quindi, quello che l'uomo ha. Esatto, e anche sapere come la gente percepisce il paesaggio. Quindi è il paesaggio vissuto e la Convenzione Europea considera il paesaggio uno degli elementi fondamentali proprio per migliorare il modo di vivere, il modo di abitare delle popolazioni europee e l'identità delle popolazioni europee. Ecco, perché adesso negli anni 2000 siamo arrivati al bisogno di una campagna Salviamo il Paesaggio? Perché purtroppo in Italia si è costruito molto, soprattutto negli ultimi anni. Se noi andiamo a guardare le statistiche ci accorgiamo che la maggior parte delle costruzioni e dell'occupazione di terreno è avvenuta proprio negli anni 2000. E negli anni 2000 c'è stata, per dire, per darvi una dimensione, tra il 1990 e il 2010... E nel Veneto la superficie agraria totale delle aziende agricole è diminuita di una quantità del 21,5% è paragonabile all'intera superficie della provincia di Vicenza, è scomparsa, diciamo, dalle attività agricole. Questo perché abbiamo costruito tantissimo, troppo, oggi abbiamo una quantità incredibile, decine di migliaia di alloggi sfitti, di capannoni sfitti, ma abbiamo anche costruito male, cioè abbiamo distribuito dappertutto questa edilizia, certo, portando quindi strade, infrastrutture, servizi e abbiamo distrutto, diciamo, un patrimonio che è anche una risorsa economica, perché l'agricoltura sta tornando ad essere a livello mondiale una risorsa importantissima da un punto di vista economico, strategico. Ci sono paesi come l'India e la Cina che si stanno comprando parti di Africa perché capiscono che, certo, nei prossimi anni l'agricoltura tornerà a essere un fattore fondamentale. Ma abbiamo distrutto anche una risorsa, un bene comune, qual è il paesaggio proprio. Cioè il Veneto era considerato negli anni scorsi, cioè diciamo dal 700 in qua fino alla metà del 900, uno dei paesaggi più eccellenti di tutta Europa, alla stregua del paesaggio toscano. E noi abbiamo dilapidato in questi anni questa risorsa eccezionale, e questo diciamo anche a scapito del nostro modo di vivere, della nostra qualità della vita. Cosa può portare questa campagna? Cioè una sensibilizzazione, ma anche qualche... una legge, una normativa diversa? Sappiamo che c'è questa normativa appunto proprio in questi giorni. Sì, in questi giorni c'è il ministro Catania, che è il ministro dell'agricoltura, che ha fatto questo disegno di legge, e devo dire che anche grazie alla pressione di Legambiente e di tutte le altre associazioni che portano avanti la campagna Salviamo il Paesaggio, questo disegno di legge è stato modificato in modo positivo e quindi ha introdotto alcuni concetti fondamentali, quindi pone un limite quantitativo al consumo di terreno agricolo e prevede ad esempio che non si possano utilizzare gli oneri di urbanizzazione delle nuove urbanizzazioni per la spesa corrente dei comuni. Ecco, questo sarebbero dei vincoli molto importanti. Il problema è che il disegno di legge ormai si sa che non riuscirà ad essere approvato prima della fine della legislatura, purtroppo, quindi rimarrà purtroppo un disegno di legge. Il Veneto e la Puglia e le associazioni hanno chiesto quantomeno al governo che però si faccia, in attesa che la legge possa essere approvata dal Parlamento, una moratoria edilizia. Questo pare che il governo non lo faccia. Una moratoria, perché il timore è che nel sentore di questa nuova legge che potrebbe bloccare le costruzioni ci sia una corsa. È quello che è avvenuto in anni passati, quando si sono fatte le grandi riforme urbanistiche, mi ricordo la legge Ponte negli anni 70, ma ad esempio anche la legge urbanistica ultima della Regione Veneto nel 2004, e in quell'anno in cui stava per essere approvata la legge o nelle more di entrata in vigore della legge c'è stato il boom dell'edilizia. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Blu Radio. Sei la mia tribù. Blu Radio. Sei già dentro l'happy hour. Vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Non senti che tremo mentre canto. È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando della campagna Salviamo il Paesaggio con Sergio Lironi, presidente onorario di Legambiente di Padova, e volevamo un po' capire adesso a che punto è questa campagna, se sono state realizzate delle azioni in particolari. So per esempio che è in corso un censimento sugli alloggi sfitti un po' in tutta Italia, forse ci sono già anche alcuni dati. Sì, i dati vengono anche dall'ultimo censimento Istat, ma d'altra parte io ho visto i dati ad esempio della Federazione delle Agenzie Immobiliari Italiane, che parlano di 2 milioni di appartamenti invenduti attualmente in Italia. Cioè, siamo in una situazione drammatica. Nel Veneto si parla di centinaia di migliaia di seconde case o di case sfitte. Nel comprensorio padovano dei 18 comuni, diciamo, attorno a Padova, siamo nell'ordine dei 19.000 appartamenti in vendita, quindi diciamo, c'è una quantità enorme di sfitto. E si continua a costruire, però d'altra parte se non si costruisce c'è tutto un comparto dell'economia, dell'edilizia che rimane fermo, o sì, può sì, fare altro, tipo riconversioni. Il problema è appunto che non si vende, quindi si è fermato automaticamente. Nell'ultimo anno c'è stato un 30% in meno di investimenti nell'edilizia. Va detto che poi tra l'altro l'investimento spesso non è tanto nella produzione edilizia quanto nella speculazione sulle aree, perché le grandi guadagni degli anni passati era chi riusciva a comprare dei terreni agricoli, farseli trasformare in terreni edificabili e farsi moltiplicare il prezzo e il valore del terreno del 10 volte tanto. Questo spiega forse anche la crisi dell'industria italiana oggi. Non si è investito in innovazione tecnologica, non si è investito nei settori diciamo trainanti dell'economia. Spesso gli investimenti sono andati nella speculazione, nella finanza, e questo diciamo ha creato una vera crisi. Quello che è successo anche in Spagna, per dire. La grande crisi è partita proprio anche negli stessi Stati Uniti. La crisi economica del 2008 è partita dal boom edilizio fatto diciamo finanziando a man bassa diciamo l'acquisto di casa. Senta, voi state proponendo questo parco tra Brenta e Bacchiglione perché? E perché proprio in questa zona centrale, tra l'altro, del Veneto? Come si collega a questa campagna? Si collega appunto perché noi come ambientalisti abbiamo deciso che non basta fare le campagne per il no, ci hanno sempre accusati di essere certo. Quelli del fronte del no, che non vogliono le nuove tangenziali, le nuove autostrade, i nuovi quartieri. Noi vogliamo fare una campagna positiva, cioè proponendo delle cose. Solo questa è una forma di tutela attiva, diciamo, del territorio. Se noi abbiamo immaginato di poter rivalorizzare l'agricoltura, un'agricoltura multifunzionale, diciamo, non un'agricoltura industrializzata, ma un'agricoltura che poi si può connettere con l'agriturismo, con le fattorie didattiche, con attività di agricoltura biologica, di ritorno alla terra dei giovani, ad esempio, cosa che sta succedendo, è uno dei pochi settori dell'economia italiana in cui sta aumentando l'occupazione, quella dell'agricoltura. Sì. E lo stesso nell'agriturismo. Ecco, quindi questo, diciamo, se noi riusciamo a rivitalizzare, a dare forza, a incentivare, diciamo, questo ritorno alla terra, questa rivalorizzazione della terra, che può essere anche una valorizzazione del paesaggio agrario, non più industrializzato, questo, diciamo, può essere veramente una molla per bloccare, diciamo, nuove espansioni urbane. Questa cosa sta andando avanti, direi, abbastanza bene, perché siamo partiti come associazioni ambientaliste, ma poi abbiamo trovato tutte le associazioni di categoria degli agricoltori che ci hanno appoggiato e che sono oggi nel coordinamento. Ci sono anche alcuni comuni che hanno già visto favorevolmente adesso. Nel Padovano ci sono 3 assessori che stanno seguendo il progetto, quindi Ivo Rossi, che è il vice sindaco, l'assessore Zan, che è l'assessore all'ambiente, l'assessore Michalizzi, che è l'assessore al verde. Anche con iniziative immediate, cioè, perché il progetto significa, diciamo, disegnare un altro tipo di paesaggio, un altro tipo di territorio, rivalorizzare l'agricoltura, ma significa partire subito con delle cose che si possono fare. Ad esempio, nel Basso Isonzo il comune sta immaginando di mettere a bando 13 ettari per la costituzione di un'azienda. Basso Isonzo, per chi non è di Padova, non stiamo parlando di Friuli Venezia Giulia, stiamo parlando di un'area zona padovana. Sono 13 ettari di proprietà comunale che il comune metterà a breve a bando per la costituzione di una nuova azienda agricola, una cooperativa di giovani che gestisca, diciamo, questo territorio, ne possa avere anche, diciamo, dei benefici economici, ma che possa diventare anche un parco visitabile, fruibile dai cittadini con prodotti di agricoltura biologica. Rispetto a questo c'è una questione che ormai si porta avanti da decenni in quest'area di Padova tra il Brenta e il Bacchiglione, che è l'idrovia, sulla quale ci sono varie ipotesi di trasformarla dalla camionabile a... Sì, l'idea nostra è che siamo partiti dai 18 comuni che costituiscono la comunità metropolitana padovana. Volutamente è un territorio che appare, diciamo, desolato, perché c'è un misto di campagna in mezzo ai capannoni, in mezzo a centri commerciali, in mezzo a case sparse e così via. Però in realtà ci troviamo diciamo nel cuore di un'area che ha, diciamo, valenze paesaggistiche eccezionali. Da una parte abbiamo i Colli Ugani, per dire, sud-ovest, abbiamo il Brenta, tutto il medio Brenta, dove ci sono da anni progetti, diciamo, di formazione di un vero e proprio parco naturalistico. Abbiamo il graticolato romano a nord-est, che è un'area, diciamo, di archeologia e industria, forse la più importante d'Italia da un punto di vista di memoria storica del graticolato romano, dell'organizzazione delle campagne fatte in epoca romana, e abbiamo tutta la riviera del Brenta, e avremo anche questa possibilità dell'idrovia, cioè se invece di fare la camionabile, come qualcuno vuole ancora fare, che non ha poi molto senso perché diventerebbe un doppione in realtà dell'autostrada, si portasse a termine il progetto di idrovia Padova Mare, non solo, diciamo, si potrebbe avere una salvaguardia idraulica per la città di Padova, che è sempre sotto la minaccia dell'alluvione il giorno in cui ci fosse nuovamente, come nel 66, la piena del Brenta, ma avremmo, diciamo, anche la possibilità di costituire una grande infrastruttura verde ecologica, diciamo, di collegamento, che potrebbe ridisegnare tutto il paesaggio che sta tra le città di Padova e Mestre e Marghera. Bene, purtroppo il nostro tempo si sta esaurendo, quindi dobbiamo passare alle notizie. Ringraziamo intanto Sergio Dironi per questo approfondimento sulla campagna Salviamo il paesaggio, e comunque sul paesaggio del Veneto, un argomento sul quale speriamo di poter tornare molto presto. Grazie a voi e alla prossima volta. Grazie. Passiamo ora ad alcune notizie. L'Unione Europea ha appena portato a termine un progetto volto a garantire in Cina la protezione di 10 celebri denominazioni di prodotti alimentari europee. La Cina è il più grande mercato di consumo al mondo. Il grana padano e il prosciutto di Parma sono le due denominazioni italiane che rientrano tra le 10 denominazioni dell'Europa ad aver ricevuto la protezione in quanto indicazioni geografiche in Cina nell'ambito del cosiddetto progetto 10 più 10. Parallelamente, la Commissione ha esaminato e registrato 10 denominazioni di prodotti alimentari cinesi che vanno ad aggiungersi alle oltre 1000 denominazioni di prodotti agricoli e alimentari protette all'interno dell'Europa. Negli ultimi 20 anni hanno chiuso i battenti 60.000 stalle con la perdita di migliaia di posti di lavoro causata dalla concorrenza di latte spacciato come Made in Italy e dal boom dei costi di produzione, rincarati del 40% tra il 2011 e il 2012. Per fare fronte al finto Made in Italy, ma in realtà importato da paesi comunitari, perché non è ancora obbligatorio indicarne in etichetta la provenienza, Coldiretti ha lanciato il primo latte UHT a lunga conservazione proveniente al 100% da allevamenti nazionali e firmato dagli agricoltori italiani. Al contrario della stragrande maggioranza dell'UHT in circolazione in Italia, il latte della filiera Coldiretti arriverà solo da allevamenti nazionali selezionati e controllati e per la sua lavorazione verrà usata energia verde da fonti rinnovabili, in accordo ai principi del protocollo di Kyoto. Il contenitore porterà la scritta «Io sono italiano». Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast scaricando la trasmissione dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.